un semplice impiegato, non mi sentivo malato, ero normale, educato, nemmeno iscritto al sindacato, abituato alle buone maniere e quando sbagliavo il capo porgevo scuse sincere fino a quella canzone di protesta, pochi anni più di loro, ma non importa, adesso torno al lavoro, accumulo ricchezze e loro e loro, basta cazzate, da poeta con corone d'alloro. Sono calmo al telefono, non ho mai fatto sciopero, che sono un buon diavolo, lo sa il cielo. Dico, non vogliamoci del male, non mi sento normale e mi sorprendo ancora a misurarmi su di loro. Adesso è tardi, cico, adesso torno al lavoro e loro in strada, i ribelli da intifada avranno il loro senso, ma per me è una sciarada questa voglia di sopportare, di poter sanguinare. Il senso non deve essere rischiare, ma forse è proprio questo, non voler più sopportare. Ehi, chissà che cosa provano a liberare questa fiducia incrollabile nelle proprie tentazioni, allontanare gli intrusi dalle proprie emozioni, allontanare il tempo prima di trovarti solo con la paura fottuta di non trovare un lavoro. Rischio la mia libertà, affogare ogni giorno in questa quotidianità. Forse ne vale la pena scordare la strada di casa, credersi cosmopolita ed è lo stesso dare zappa a Mombasa. Incontrare la gente senza doversi fingere innocente, mi sforzo di ripetermi le stesse idee del cazzo, al di là di un vetro infranto che mi protegge dal privilegio di restarmene indietro, non aver coraggio di lottare almeno un poco. Passione come un fuoco, ma non toma, non sa le regole del gioco. Senza la mia paura, io mi fido poco, ed ho i miei amici in ritardo, ma per l'odio mi arrangio, sono un disperato codardo, in crisi di chi ha facce e mostra solo visi, sempre gradevoli, ma sempre più imprecisi, tutti in un gran galà, e io sogno la bomba che spacca ogni maschera che salta, è un calcio in culo alla tua fede corrotta, senza pietà, per la mia prima volta. Per la mia prima volta, cico, 2009, Nike, distretto, e io sogno la bomba.